Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. Quando Wertheimer riprese a camminare per strada, quando da uno che stava sempre seduto tornò ad essere, per così dire, uno che cammina, erano passati vari mesi dal matrimonio di sua sorella. Dal Kohlmarkt, nel suo periodo migliore, egli soleva andare a piedi fino al 20° distretto e da questo passava al 21° per poi ritornare verso il primo attraverso la Leopoldstadt e poi nel primo camminava ancora per ore e ore fino a quando non ne poteva più. In campagna era come paralizzato, non si addentrava nel bosco neanche di pochi passi. La campagna mi stufa, diceva di continuo. Glenn ha ragione chiamandomi sempre camminatore di strade asfaltate, diceva Wertheimer. È vero che io cammino solamente sull'asfalto. In campagna non cammino, camminare in campagna mi annoia infinitamente e rimango a sedere nel capanno. Quello che lui chiamava capanno era il casino di caccia di 14 stanze ereditato dai genitori. Il fatto è che in questo casino di caccia si alzava di buon mattino e, come se avesse in mente di camminare per 50 o 60 chilometri, si metteva gli scarponi alti di cuoio, un loden pesante e in testa un berretto di feltro. Ma poi andava fuori solo per constatare che non aveva voglia di allontanarsi e allora si svestiva e si metteva a sedere nella stanza da basso, guardando con occhi sbarrati la parete di fronte. L'internista sostiene che in città non ho speranze, diceva, ma qui di speranze non ne ho veramente neanche una. Io odio la campagna. D'altra parte ho intenzione di seguire le prescrizioni dell'internista, non voglio in futuro dovermi fare dei rimproveri. Comunque di qui non posso uscire e in ogni caso non posso camminare in campagna. Non esiste niente di più insensato per me, è un'insensatezza nella quale non incorro, un crimine della follia che non commetto. Regolarmente mi vesto, diceva, e vado davanti alla casa, ma poi torno indietro e mi svesto di nuovo. È sempre così in qualsiasi stagione dell'anno. Almeno, diceva, nessuno assiste alla mia follia, pensai nella locanda. Al pari di Glenn, Wertheimer non sopportava nessuno intorno a sé. Così col passare del tempo diventò insopportabile, ma io stesso, pensai stando in piedi nella locanda, non sarei certo in grado di vivere in campagna. Per questo vivo a Madrid e non ci penso neppure di andarmene da Madrid. Madrid è infatti la città più splendida che ci sia e in essa ho tutto, tutto ciò che il mondo può offrire. Senza neanche accorgersene, chi vive in campagna col passare del tempo rimbecillisce. Crede per un certo periodo che la sua sia una vita originale, che fa bene alla salute, e invece la vita di campagna non è affatto originale. Anzi, per chi non sia nato in campagna e cresciuto per la campagna, è una vita insipida, che fa solo male alla salute. La gente che si trasferisce in campagna, se davvero si addentra nella campagna, conduce un'esistenza dir poco grottesca che prima la porta al rimbecillimento e poi alla morte, una morte ridicola. Consigliare a un uomo che vive in una grande città di trasferirsi in campagna per poter sopravvivere è una tipica cattiveria da internisti, pensai. Sono davvero atroci, pensai, i casi di tutte quelle persone che da una grande città si sono trasferite in campagna con l'idea che in campagna si vive meglio e più a lungo. Ma in verità Wertheimer, più ancora che del suo internista, è stato una vittima della propria persuasione che la sorella esistesse solamente per lui. Più di una volta disse in effetti che sua sorella era stata partorita per lui, per stare accanto a lui e in un certo senso per proteggerlo. «Nessuno mi ha deluso come mia sorella», ha esclamato una volta, pensai. Si era ormai abituato alla presenza della sorella in modo mortale, pensai. Il giorno in cui la sorella lo ha lasciato, egli le ha giurato odio perenne e ha tirato tutte le tende della casa del Kohlmarkt con l'idea di non aprirle mai più. E in effetti è riuscito a resistere nel suo proposito per 14 giorni. Solo il 14° giorno ha riaperto le tende della casa del Kohlmarkt e come un pazzo si è buttato in strada affamato di cibo e di gente. Ma già sul Graben, come so, il soccombente è crollato a terra. Se fu subito riportato in casa sua, ciò fu dovuto soltanto a un caso fortunato, pensai. Proprio in quel momento, infatti, un suo parente passava di lì. E se quello non si fosse fermato, con ogni probabilità Wertheimer sarebbe stato internato in un manicomio, allo Steinhof, dal momento che a vederlo sembrava proprio un pazzo. Il più difficile tra noi non era Glenn, bensì Wertheimer. Glenn era forte, Wertheimer era il più debole di noi tre. Non è vero che Glenn era un pazzo, come è stato più volte sostenuto in passato e ancora oggi dicono in molti. Wertheimer invece lo era, come io sostengo. Per 20 anni è riuscito a incatenare a sé sua sorella, l'ha tenuta legata con migliaia, anzi centinaia di migliaia di catene, ma lei a un certo punto gli è esplosa via e ha fatto, ritengo, quello che si dice un buon matrimonio. La sorella, già ricca di suo, ha sposato uno svizzero ricco sfondato. Non poteva più sentire la parola sorella nella parola coira, così ha detto Wertheimer quando l'ho visto per l'ultima volta. Non mi ha scritto, disse, neanche una cartolina, pensai nella locanda guardandomi intorno. Era scappata via da lui in gran segreto e nella casa aveva lasciato tutto così com'era. Non ha portato via niente, diceva lui di continuo. Malgrado mi avesse promesso che non mi avrebbe mai lasciato, mai e poi mai, così diceva, pensai. E come se non bastasse, diceva, mia sorella l'ha convertita, usava proprio questo termine, è diventata profondamente cattolica, inguaribilmente cattolica. Ma è così, diceva, che sono fatte queste persone profondamente religiose, profondamente cattoliche, convertite al cattolicesimo. Non arretrano di fronte a niente, neanche di fronte al più grande dei delitti. Sono capaci di abbandonare il loro fratello e di buttarsi tra le braccia del primo rammollito che passa e che per puro caso e per mancanza di scrupoli ha fatto i soldi, così ha detto, pensai, l'ultima volta che sono andato a trovarlo. Lo vedo ancora davanti a me, sento quello che dice, sento ancora una per una le sue frasi sbozzicate. Le adoperava sempre quelle frasi, gli si adattavano così bene. Nostro soccombente è un esaltato, ha detto Glenn una volta. Quasi ininterrottamente è lì che muore di autocommiserazione. Lo vedo ancora, Glenn, mentre dice questa frase. Sento come la dice. Fu una volta sul Mönchsberg, sulla cosiddetta Altura Richter, dove con Glenn ero già stato molte volte, ma senza Wertheimer, quando Wertheimer, per un motivo o per l'altro, preferiva starsene da solo, senza di noi, molto spesso con un senso di mortificazione. Io l'ho definito più volte come l'offeso. Dopo la partenza di sua sorella, sempre più spesso egli si era ritirato a Traich. «Proprio perché Traich mi è odiosa, vado a Traich», diceva. Nella casa del Kohlmarkt stagnava la polvere perché in sua assenza lui non permetteva a nessuno di metterci piede. A Traich rimaneva spesso in casa per giorni interi. Dal suo boscaiolo si faceva portare solo un bricco di latte, del pane, del burro e un pezzo di carne affumicata. E leggeva i suoi filosofi Schopenhauer, Kant, Spinoza. Anche a Traich teneva le tende tirate per quasi tutto il tempo che restava lì. Una volta ho pensato di ricomprarmi il Bösendorfer, diceva, ma poi ho lasciato cadere questa idea. Sarebbe stata una follia. Tra l'altro, diceva, non tocco un pianoforte da 15 anni, pensai nella locanda, incerto se chiamare o no. Il mio più grande errore è stato quello di credere di poter essere un artista, di poter condurre un'esistenza da artista. Comunque non avrei potuto trovare subito rifugio nelle scienze dello spirito. Passare attraverso il mondo dell'arte mi è stato indispensabile, diceva. Credi che sarei diventato un grande virtuoso del pianoforte? mi domandava, ma come ovvio non aspettava la mia risposta, e ridendo buttava fuori da sé un'atroce «Mai! Tu sì!» diceva, «ma io no!» «Tu avevi la stoffa», diceva, «questo l'ho visto subito, mi è bastato sentirti suonare un paio di note, subito mi è stato chiaro, tu sì, ma io no». E quanto a Glenn è stato chiaro fin da principio che lui è un genio, il nostro genio americano-canadese. «Ognuno di noi fallisce per motivi diversissimi e tra loro contrastanti», diceva Wertheimer, pensai. «Io non avevo niente da dimostrare, solo tutto da perdere», così diceva, pensai. «Probabilmente le nostre doti sono state la nostra sventura», diceva, ma subito dopo aggiungeva, «Glenn non è stato ucciso dalle sue doti, che anzi hanno sviluppato il suo genio. Chissà», diceva Wertheimer, «se non fossimo venuti in contatto con Glenn, se il nome di Horowitz non avesse significato nulla per noi, se non fossimo andati affatto a Salisburgo. Noi in questa città siamo venuti a crepare perché qui abbiamo studiato con Horowitz e conosciuto Glenn Gould. Il nostro amico ha significato la nostra morte. Tra quelli che hanno studiato con Horowitz, noi eravamo i migliori, ma Glenn era migliore dello stesso Horowitz», diceva Wertheimer. Mi sembra di sentirlo, pensai. D'altra parte, diceva, noi viviamo ancora e lui no. Nella sua cerchia erano morti molti, diceva, molti parenti, amici e conoscenti, ma non una di queste morti lo aveva minimamente turbato, mentre la morte di Glenn lo aveva colpito mortalmente, e la parola mortalmente la pronunciava in maniera straordinariamente spiccata. «Non è certo necessario», diceva, «vivere con una persona per stabilire con questa un fortissimo, ineguagliabile legame». La morte di Glenn, disse una volta, lo aveva colpito molto profondamente, pensai, in piedi nella locanda. Benché così lui, questa morte fosse prevedibile e ovvia come nessun'altra morte. Ma nonostante tutto noi non la concepiamo, non riusciamo a comprenderla né a concepirla. Glenn aveva una grandissima predilezione per la parola e il concetto soccombente. Ricordo benissimo che la parola soccombente gli era venuta in mente nella Sigmund Hafnergasse. «Se guardiamo con attenzione gli esseri umani», ci disse Glenn una volta, «non vediamo altro che mutilati, mutilati esteriormente o interiormente, o anche interiormente ed esteriormente. Sono tutti così», pensai. «Quanto più a lungo guardiamo con attenzione un essere umano, tanto più egli ci appare mutilato dal momento che all'inizio ci rifiutiamo di percepire l'entità vera della sua mutilazione. Il mondo è pieno zeppo di mutilati. Camminando per la strada incontriamo soltanto mutilati. Invitiamo da noi una persona e ci troviamo in casa un mutilato. Così, Glenn, pensai». In effetti questo l'ho constatato anch'io moltissime volte e dunque non ho potuto far altro che confermare le parole di Glenn. «Wertheimer, Glenn, io siamo tutti mutilati», pensai. «Amicizia, comunanza artistica», pensai. «Mio Dio, che follia! Io sono l'unico superstite, adesso sono solo», pensai. «Perché a dir la verità nella mia vita ci sono stati solamente due esseri umani che a questa vita hanno dato un senso, Glenn e Wertheimer. Adesso sono morti, Glenn e Wertheimer sono morti e io di questo fatto devo farmi una ragione». La locanda mi faceva l'effetto di un locale fatiscente. Come in tutte le locande di questa zona c'era sporco dappertutto e l'aria si poteva, come si suol dire, tagliare col coltello. Tutto quel che si vedeva era disgustoso. Già da tempo avrei potuto chiamare la padrona della locanda, che in effetti conoscevo, però non la chiamai. Si dice che Wertheimer abbia dormito più di una volta con la padrona della locanda. Naturalmente, a quanto si racconta, nella locanda di lei e non nel casino di caccia di lui, pensai. Glenn, in definitiva, aveva suonato solamente le variazioni Goldberg e l'arte della fuga anche quando suonava altri autori, magari Brahms o Mozart, Schoenberg o Webern. E di entrambi questi ultimi aveva la massima considerazione, ma Schoenberg lo metteva al di sopra di Webern e non viceversa, come si crede normalmente. Più volte Wertheimer ha invitato Glenn a Traich, ma Glenn, dopo il concerto al Festival di Salisburgo, non è mai più venuto in Europa. Non si può dire neppure che ci scrivessimo, perché quel paio di cartoline che ci siamo scambiati in tutti quegli anni non possono essere definite come una corrispondenza. Glenn ci mandava regolarmente i suoi dischi e noi lo ringraziavamo, questo è tutto. In fondo ciò che ci univa era la totale mancanza di sentimentalismo da cui la nostra amicizia era caratterizzata. Anche Wertheimer era alieno da ogni sentimentalismo, benché stando alle apparenze si sarebbe molte volte detto il contrario. Quando si lagnava il suo non era sentimentalismo, ma calcolo, un calcolo ben preciso. L'idea di voler rivedere ancora una volta, dopo la morte di Wertheimer, il suo casino di caccia mi parve ad un tratto talmente assurda che mi misi, sia pur senza farlo davvero, le mani nei capelli. Ma il mio non può dirsi un atteggiamento sentimentale, pensai, e intanto mi guardavo intorno nella locanda. All'inizio volevo soltanto visitare la casa viennese del Kohlmarkt, ma poi ho deciso di andare prima a Traich per poter fare un ultimo sopralluogo nel casino di caccia in cui Wertheimer ha trascorso gli ultimi 2 anni in condizioni che so le più atroci. Dopo il matrimonio di sua sorella aveva resistito, sia pure con grande fatica, altri 3 mesi a Vienna. Aveva errato per tutta la città, questo me lo posso immaginare, non cessando di maledire sua sorella fino al momento in cui se n'era dovuto semplicemente andare, e così aveva lasciato Vienna per rintanarsi a Traich. La sua ultima cartolina spedita a Madrid mi aveva fatto orrore. La sua calligrafia era quella di un vecchio. Non si potevano trascurare i segni di follia presenti in quella cartolina che diceva cose sconnesse. Ma io allora non avevo intenzione di partire per l'Austria. Nella mia casa di Caie del Prado ero troppo immerso nel mio lavoro su Glenn Gould, un lavoro che non volevo interrompere per nessun motivo, sapendo che interrompendolo lo avrei perduto. E siccome non volevo correre questo rischio, non risposi affatto alla cartolina di Wertheimer, che già alla prima scorsa mi era sembrata preoccupante. A Wertheimer era venuta l'idea di volare in America per il funerale di Glenn, ma io questa idea non l'accettai e lui non volava da solo. Ad alta voce, Elia Shilton ha letto Il soccombente di Thomas Bernhard. A cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per ascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it.